lavoro culturale, lavoro di movimento, lavoro culturale e conflitto, letteratura e conflitto. L'occasione ce la dà questo libro pubblicato da Dinamo Press Book, che l'hanno curato insieme al Centro Sociale del Cox 18 e all'Archivio Primo Moroni, oltre che a Maisa Moroni, che sarà presente a questa iniziativa di presentazione. Il libro, che si intitola Geografia della Rivolta, Primo Moroni, il libraio del movimento, sarà presentato appunto da Maisa Moroni, da Pominguno, da Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto e di Giacobbe in Italia, e da attivisti del Centro Sociale Cox 18. E quindi sì, per noi è, diciamo, un tributo a 20 anni dalla scomparsa di Primo Moroni, ma è anche una discussione di quel portato. Il libro è una raccolta di suoi scritti e quindi quelle riflessioni rispetto a chi tutt'oggi prova a fare cultura indipendente, iniziativa culturale dentro i movimenti, e come contributo attivo alla ricostruzione, diciamo, in una sinistra, in quello che abbiamo definito Paese senza sinistra nella rivista Jacobin. E poi la sera poi ci sarà un aperitivo e di nuovo musica, come un po' tutte le sere, e ci sarà il concerto della cantatrice argentina Cande Marzenotto, e questo concluderà il nostro festival domenica sera. Certo, io ricordo che appunto il programma completo si trova anche in un evento Facebook e anche sul sito di Alegre, e che chi non potesse essere fisicamente presente può seguire l'evento in uno streaming dedicato proprio da Radio Città Fujiko. L'indirizzo lo trovate sul sito. Grazie mille Giulio e ci vediamo domani. Eh sì, a domani. Ciao a tutti e a tutte.